versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:35, primi 22 secondi, quindi diretta dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it e il numero di telefono per intervenire 800 24 00 24 in questo lunedì 15 dicembre, inizio della settimana. Allora, il punto, vado subito alla questione, è questo. Come sapete, domani, ma ne parleremo domani, c'è il saldo IMU TASI per milioni di italiani, quindi le tasse sulle case, e entreremo domani nel merito del bilancio anno dopo anno di quanto stiamo pagando in più sul mattone. Detto questo, siccome viviamo in una realtà dove i comuni che hanno applicato le aliquote massime, no? O comunque le più elevate, vicine alle massime sulla tassazione immobiliare, convivono con poi comuni che continuano a sperperare e a fare regalie. E la trasmissione di oggi, quindi, nell'invitarvi nel vostro comune, se pagate tanto con le aliquote alte sulla casa e se avete impressione, o meglio informazioni da girarci intervenendo a telefono sulle spese che i comuni continuano a tenere allegre e alte, chiamateci, perché questa trasmissione nasce da un nostro ascoltatore, si chiama Randazzo di cognome, di Palermo, che ci ha inviato una bella lettera nella quale, oltre a segnalarci, e adesso ve lo dico, quanto paga in più lui di imposte sulla casa a Palermo, Luigi Randazzo, a quel punto, vedendo che il comune di Palermo comunque estende la lista delle regalie di fine anno per associazioni culturali, manifestazioni e cose varie, le estende, perché stiamo parlando di un impegno del comune che rispetto ai 400.000 euro dell'anno precedente sale adesso per Natale a 622.000 euro, ha attirato la nostra attenzione ponendo, secondo me, un giusto interrogativo. Ma come diavolo si spiega, come è possibile che chi ci applica le aliquote massime poi continui a fare spese allegre, perché non si tratta di spese essenziali? Adesso vi farò alcuni esempi di questi progetti. Nel frattempo ricordatevi bene che nella sola regione Sicilia i comuni a cui è stato necessario mandare i commissari perché non hanno, e siamo a metà dicembre, approvato i bilanci preventivi per l'anno, sono la bellezza di 224 comuni che non hanno approvato il bilancio preventivo 2014. Per capirci, ci sono tutti i più grandi comuni capoluogo della regione: Palermo, di cui parliamo oggi, Catania, Messina, Agrigento, Enna, Siracusa, Trapani. Poi ci sono 55 comuni nel palermitano, 52 nel messinese, 34 nel catanese, 29 nell'agrigentino, 3 nella ex provincia abolita, non abolita, fate voi, di Ragusa. Quindi, per capirci, stiamo parlando di una situazione nella quale le amministrazioni locali, nel mentre continuano a disporre spese come quelle di cui vi farò alcuni esempi oggi, e nel mentre in moltissimi casi hanno ovviamente alzato al massimo le aliquote per prendere i soldi dai cittadini che risiedono nei loro ambiti territoriali, nel frattempo non fanno neanche i bilanci preventivi. 224 comuni solo nella regione Sicilia, ripeto. Allora, questa è la condizione. A questo punto il nostro ascoltatore ci ha ricordato quanto pagava prima e quanto di anno in anno arriva a pagare in questo 2014, perché di sola TASI, ci ricorda, prima di Berlusconi, quindi prima dell'abrogazione sulla prima casa, l'equivalente pagava 250 euro, poi ovviamente non pagò, quest'anno paga 344 euro. Per l'IMU invece, è passato da 1230 euro l'anno a 2300, dopodiché per l'immondizia, cioè per i rifiuti urbani, pagava 320 euro nel 2013, paga 420 euro quest'anno. Quindi, facendo l'aggravio complessivo sulla sua casa, stiamo parlando della bellezza di 1300 euro tra un anno e l'altro in più, cioè più di 100 euro al mese in più. E stiamo parlando di una persona che ha, come ci ha dichiarato, controllato, 85 anni, cioè di un pensionato. Certo, proprietario di una bella casa dove abita, però insomma spariscono 1300 euro da un anno all'altro. Allora, a fronte di tutto questo, vivere in un comune che ha deciso per Natale con il sindaco Luca Orlando di estendere le spese per le attività culturali e ricreative del Natale, a questo punto pone un problema, per così dire, perché è proprio necessario per comuni che stanno in queste condizioni continuare, perdonatemi, a pasturare la ricchissima lista di associazioni di vario tipo e di vario genere, delle quali bisogna sempre ricordarsi, perché poi alla fine fanno tanto i bei votarelli, rispetto al fatto che, adottando aliquote così elevate, forse bisognerebbe concentrarsi nei servizi essenziali. Quelli sì, bisogna cercare di non tagliarli. Vi ricordo a tutti che ovviamente i comuni sono la frontiera più vicina al cittadino per l'assistenza sociale, per chi non ha casa, per chi le case popolari e così via. Allora, forse quelli sono i servizi in cui concentrarsi. In altre parole, perché spendere, per esempio, deliberare di spendere in queste condizioni 110.000 euro per una manifestazione che si chiama I Sentieri del Natale, fatta da Federteatri Sicilia? 110.000 euro? Ma perché spendere 2.500 euro per il Mondo dei Presepi, fatto dall'Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, con tutto il rispetto ovviamente per il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino? Perché spendere 10.000 euro per una cosa che si chiama Natale con i miei, il giardino di Babbo Natale? Qui invece bisogna spenderli, perché il giardino di Babbo Natale è nel carcere del Luciardone di Palermo, e per me questa iniziativa, e sono solo 10.000 euro, sicuramente è una di quelle che un comune deve tentare di preservare. Ma sul Natale della Pace al Castello Mare Dolce di Brancaccio, che sono 4.300 euro, bah, io inizierei ad avere qualche dubbio. O che ne so, Francesco una follia d'amore, dedicato a San Francesco dell'associazione culturale Rosa Balistreri, per carità, Rosa Balistreri, una stella della canzone popolare siciliana, 5.000 euro, avrei dei dubbi anche su questo. Oppure 2.200 euro per una band gospel, concerto di musica moderna con esibizione della band Before Christ Experience, concerto del coro polifonico della Supernova Sound, organizzato da un'associazione che si chiama Italia Top Racing. Sono così essenziali quando abbiamo le tasse al massimo? Beh, io direi di no. Oppure la manifestazione Esther e Salvatore, l'unione di anime mediterranee, festa di cultura, civiltà, colori, ritmi, profumi e sapori dell'associazione di Loggione, 8.000 euro, è essenziale? Bah, giudicate voi. E poi Christmas, anzi un Christmas bus, cioè bus, perdonatemi, perché questo è un autobus che gira per il Natale, emozioni con trasporto, 7.000 euro, organizzato da un'associazione di autisti. Ora, l'associazione di autisti, io capisco tutto, ma bisogna finanziarle per fare cose natalizie col denaro pubblico? Beh, io credo di no. Se le vogliono fare, è un'offerta del privato, e i clienti forse aumenteranno. Se li fanno a spese nostre, perdonate, inizio a non capire. Oppure un Natale sulle orme di Akbar, dell'associazione di promozione sociale Le Balate. Per carità, sono solo 2.100 euro, però guardate che qui la lista è fatta di 166 proposte di questo tipo, è così che si arriva a fare le centinaia e le centinaia di migliaia di euro. Un altro spettacolo, Umanità dove sei? L'Africa di Rino Martinez, Ali per volare onlus, 4.000 euro, perfetto, ma perché a spese nostre? Oppure associazione culturale Tanto di Cappello, teatro di strada e circo di strada, 4.000 euro, anche qua la gente paga le tasse in più e si chiede. Allora io non vorrei prendere l'intera trasmissione a farvi l'elenco di queste manifestazioni, delle quali io posso anche sperare che i cittadini di Palermo beneficino molto, ne siano felici, per carità, ho un calendario ricchissimo per i giorni di Natale. Ma il criterio, quando non si è neanche in grado di approvare un bilancio preventivo e quando si ha il massimo delle tasse, non dovrebbe essere quello di vi dimostro, cari cittadini, che queste aliquote al massimo sono proprio costretto a mettervele al massimo, e al contempo l'amministrazione comunale, vale per Palermo ma vale in tutta Italia, però quest'anno deciderà di rispettarvi così tanto che un bel po' di erogazioni a regalia non le facciamo? Ecco, questo sarebbe il mondo ideale, secondo me, il modo, oltre che il mondo ideale, di procedere da parte degli amministratori pubblici. Voglio sperare che non pensiate che sia il solito mercatista tacceriano. Qui non c'entra niente, è un principio di equilibrio tra ciò che si chiede in più e ciò che si spende al contempo. Ecco, un principio elementare di rispetto per noi tutti. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:47 per i 30 secondi. Stiamo partendo da un caso segnalatoci da un nostro ascoltatore, avanti con l'età, e per questo secondo me è ancora più degno di rispetto, che ci dice: io pago più di 1.000 euro in più per la casa con l'aliquota al massimo di Palermo, Palermo non ha il bilancio preventivo, e però queste sono, è la lista di quello che erogano per Natale, metà di più dell'anno scorso, e c'è una lista che fa, devo dire, molto pensare. Ecco, io non sono in grado di dirvi chi c'è dietro ciascuna di queste associazioni culturali, una cosa è certa, spendono il 50% in più. Oggi aggiungo a questa notizia, ma ne parleremo in una delle prossime puntate, questa decisione di candidarsi alle Olimpiadi per il 2024 a Roma. Allora, con quello che si vede tra Expo, Mose, Roma e Mafia Capitale, che Dio ce la mandi buona. Io mi limito a dire oggi che coi mondiali del 90 abbiamo fatto una figura, ecco, e chi sta a Roma sa quante opere sono rimaste a metà e chi e come e quanto ci ha manducato. Allora, io capisco che Renzi dica l'ottimismo e bisogna credere, bisogna nutrire la fiducia nell'Italia del domani, non possiamo stare piantati, anche se oggi il governatore della Banca d'Italia, intervenendo in un'audizione alla Camera, ha detto: guardate che il rischio concreto è che noi dai 9 punti di PIL che perdiamo dal 2008 ne perdiamo altri 3 nei prossimi 2 anni, una notizia che ha fatto rabbrividire tutti. Però questa candidatura per le Olimpiadi certo fa pensare. Io mi auguro che almeno facciano una commissione indipendente per valutare costi, benefici e infrastrutture, perché sennò chiunque non può che pensare, con quello che si vede da come a Roma girano le cose pubbliche, che insomma i rischi siano altissimi. E non mi pare così secondario, non mi pare gufare contro l'Italia immaginare che tutti noi vogliamo la certezza assoluta di ogni singolo euro e che sia necessario rispetto a quanto ci manca di indispensabile invece, ma ne parleremo. Adesso sentiamo un po' come la pensate voi, partendo da Palermo, ma sui casi dei vostri comuni, se pagate le aliquote al massimo e se vi sembra che davvero si stiano concentrando nelle spese sull'indispensabile. Cominciamo con Enrico da Livorno, prego Enrico. Caro Giannino, buonasera, prima di tutti complimenti per le cose che ascolto sempre volentieri da lei. Detto questo, mi sembra purtroppo troppo ottimista. Cioè, lei vede ancora un collegamento tra i soldi prelevati ai cittadini e una funzione pubblica che... lei dice meglio rinunciarci a questa idea. Che non esiste più. Noi siamo in mano a un'oligarchia che vuol soltanto perpetuare i propri privilegi, le proprie ricchezze per se stessi e per le proprie famiglie. Non c'è niente da fare e non capiscono che possono affondare anche loro nella bancarotta dello Stato italiano, perché lo Stato italiano è già tecnicamente in bancarotta, ma non ne vogliono prendere atto e non vogliono prendere provvedimenti. Renzi non ha chiuso neanche un'edicola inutile, Niente. Tutti sono andati. Quindi lei mi pare molto, molto, molto critico. Intanto ringrazio Enrico e do una risposta. Stanno arrivando molti sms. Alcuni mi dicono: sì, però tu hai individuato, hai letto, anzi, ci hai letto degli esempi che sono manifestazioni culturali. Cosa facciamo? Tagliamo la cultura? La cultura non è essenziale. Per carità, io non voglio disconoscere la cultura, però io vorrei che voi aveste in mano tutto questo, cioè solo di spettacoli di opera dei pupi, ne conto 1, 2, 5, 3, 7, 9, 13. Ecco, allora facciamo uno invece che se abbiamo le aliquote al massimo e non abbiamo il bilancio preventivo. Oppure, che ne so, spettacoli tipo I pesci di carta nell'acquario fantastico. Per carità, voi mi direte: è cultura, sono solo 2700 euro. Ho capito, però I pesci di carta nell'acquario fantastico, rispetto ai problemi sociali che ci sono, rispetto ai quali il comune deve fare tutto il possibile, se non di più. E non voglio incolpare il sindaco di attuale, per quanto Luca Orlando ha avuto un pregresso. Non sto facendo polemiche politiche, perché non c'entrano le polemiche politiche con questo. Sapete, ci sono circa una ventina di manifestazioni teatrali in lingua. Per carità, va benissimo, la tradizione siciliana, però anche qua ne vogliamo fare 10, non possono bastare, 20 bisogna farne. Ecco, io ho questo dubbio, francamente, perché non mi piace la pasturazione. Ecco, questa è una cosa che mi fa venire dei dubbi. Pasquale, dalla provincia di Campobasso, come la pensa? Io, guardi, lei ha detto che siamo in prima linea come enti locali, sono in ragioneria, quindi sono ancora di più in prima linea. Sì, vedo questa cosa da di dentro e mi rendo conto che quello che sta dicendo lei oggi, io lo penso ormai da 6 o 7 anni, perché ho avuto la fortuna di conoscere gli enti locali. Aspetta, di conoscere, perché poi abbiamo perso, ha avuto la fortuna enti di conoscere locali, sì, da di dentro. Gli enti locali grazie ad un master. E poi sono diventati, diciamo, dipendenti di un ente locale. Sì. In pianificazione e programmazione. Sì. E ho notato che c'è completa incapacità di pianificare e programmare sia la spesa che l'entrata. Loro dicono che sia impossibilità, lei dice incapacità. Incapacità, non c'è la questione dell'impossibilità, perché c'è una parte, è vero, che dipende da quelli che sono i trasferimenti statali, ma se io guardo bene a quello che devo erogare e cerco di ottimizzare la spesa in relazione a quello che devo effettivamente fare, io non mi devo nemmeno porre in questa fase storica il problema delle associazioni culturali. Perché le associazioni culturali non le posso più nemmeno pensare di finanziare. Pasquale, a me sembra evidente, mi conforta che lo dica anche lei dal di dentro, stando in una ragioneria. Evidentemente i politici che poi compongono la giunta la pensano diversamente, ma io ripeto, non è che voglio dire tagliamo tutta la cultura, però insomma bisognerà pur considerare che cosa viene prima. Questo è quello che mi limito a dire. Sentiamo Dario da Roma come la pensa. Dario. Pronto, buonasera. Buonasera. Prendo la trasmissione a lei, ai spettatori di 24 ore. No, io parlavo per quanto riguarda l'AMA, sì, che nei pochi anni aumenta anno dopo anno. L'AMA, ricordiamolo a chi non è di Roma, è la municipalizzata che si occupa dei rifiuti. Sì, dopo che uno come me che fa la riciclata, plastica, gomma, vetro e carta, cioè ne traggono pure dei guadagni e ogni anno aumenta, alla fine devi pagare 350, 320, 100, 330 euro appartamento. Se uno calcola gli appartamenti che sono a Roma, tutti questi soldi, alla fine che ci danno questi? Cioè dopo che uno fa la differenziale, permette all'azienda di avere un... lo so, Dario, ci siamo occupati in alcune trasmissioni mesi fa dell'AMA e dell'ATAC, e lei paga l'eccesso di assunzioni dovute ai partiti nell'AMA e nell'ATAC, non paga il costo del servizio e l'aumento della differenziata. È ovvio che lei dice aumentiamo la differenziata, dovrebbe essere ottimizzato. È vero anche che aumentare la differenziata costa di più, però abbiamo documentato come, pensate l'ATAC, l'ATAC stiamo parlando di 11 bilanci ultimi, 10 sono in perdita, perdite medie superiori a il 40% dei ricavi. Ecco, quindi stiamo parlando di una cosa che è un buco conclamato, stiamo parlando di due municipalizzate che sono tra i buchi più elevati delle 10.000 partecipate locali di primo livello nei comuni. Però per anni chi ne parlava e documentava da che cosa si dovevano queste perdite e all'allegria delle assunzioni fatte dalle partite in giunta si beccava dei pernacchi. Adesso sono arrivati i magistrati, vedremo. Renzi ci ha promesso che farà l'intervento sulle municipalizzate entro un paio di settimane. Vedere per credere, si poteva fare ai tempi di Cottarelli, già aprile scorso. Antonio da Ferrara, come la pensa, Antonio? Buonasera, dottor Giannini e anche i radioascoltatori. Io dico che le amministrazioni pubbliche non possono assolutamente spendere più di quello che incassano. È come paragonare la famiglia che incassa 2.000 euro e ne vuole spendere 4. Come fa? I 2.000 vanno a debito. E così fanno i politici. Per quanto riguarda certo, il debito lo paghiamo noi, questo è il punto. Purtroppo ce li fanno gli altri e li dobbiamo pagare noi. Però siamo arrivati a un punto di tassazione talmente elevato che i cittadini non riescono più neanche a prendersi il necessario per vivere, e quindi questo è un paradosso. La politica deve mettersi in testa di fare le cose normali, come il criterio della famiglia elementare: se non hai, non spendi e tagli. E questo mi sembra buon senso. Grazie ad Antonio da Ferrara e grazie al nostro ascoltatore Randazzo, che a 85 anni ci ha dato tutti i dati, e che Dio lo benedica, e come tanti come lui che non ce la fanno a pagare il troppo che lo Stato ci chiede in più. Continuate con Radio 24, appuntamento come a domani. La versione di Oscar.